Beh. Volevamo sapere se sapete cosa è successo qua in Piazza Fontana nel 1969, 40 anni fa. Allora, io so che è scoppiata una bomba, però di più purtroppo non so nulla. E non ti ricordi da qualsiasi cosa, ad esempio, chi sono i responsabili? Zero. Zero. Magrissima figura, ma... Panico della gente. No, ahimè non siamo arrivati a completare il programma scolastico, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'è stata la possibilità di conoscere quello che c'è stato dopo. Purtroppo il programma si è fermato prima, vuoi per lentezza del professore durante la spiegazione oppure ci si dilunga troppo, infatti troppo remoti, quindi magari meno importanti, meno rilevanti. Si arriva a conoscere perfettamente la storia romana, benissimo. Però poi non si conosce la storia contemporanea, che secondo me è molto più importante. Non ci sapresti dire almeno dove è scoppiata questa bomba? Cioè, Piazza Fontana. Più o meno, perché questa è tutta Piazza Fontana. Dove c'è il monumento? Quale? Lì dove ci sono le ghirlande nella piazzetta in fondo. Quello lì invece è il monumento a un ferroviere che è morto 3 giorni dopo Piazza Fontana, che era accusato della strage, però a livello processuale è stato dimostrato che lui non c'entrava niente. Ecco. Secondo te, cosa ti sentiresti di dire relativo a questa cosa? Che spesso si cerca di trovare un capro espiatorio anche quando, per risolvere un caso, solo per dire che l'abbiamo risolto, anche quando realmente non è così. Volevamo sapere, guardate qui, ah già. Ah sì, d'accordo.